Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ieri durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori. Ho cominciato ad avere mal di gola. Ovviamente non sono più andata in piscina e oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l'esito è positivo. Quindi sono positiva al Covid. Mi dispiace veramente tanto per tutto, per me che avevo cominciato l'anno bene, che mi stavo allenando bene, che non vedevo l'ora di ricominciare una stagione normale. E invece niente, ci rifermiamo di nuovo. Un'afflittissima Federica Pellegrini, questa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, la campionessa di nuoto, orgoglio dello sport nazionale italiano a livello mondiale, che su Instagram ha raccontato le stesse, insomma, di essere positiva al Covid. E poco prima era emerso che anche Valentino Rossi, campione di motociclismo, è stato contagiato dal coronavirus, che evidentemente non risparmia nessuno. La situazione è piuttosto seria, piuttosto grave. Vedevo poco fa che l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute lanciano un appello a popolazione di rispettare con coscienza e precisione tutte le norme di precauzione previste. La situazione è particolarmente seria in Campania, tanto che poco fa il presidente De Luca ha firmato un'ordinanza con la quale chiude tutte le scuole di ogni ordine e grado sino al 30 ottobre. Pensate, già paventava da tempo di chiudere tutto, adesso per il momento ha chiuso le scuole. Ne parleremo collegandoci con la nostra corrispondente in Campania. E poi invece, per quanto riguarda sempre la questione molto complessa che lega trasporti e scuola, la congestione dei trasporti, la presenza dei ragazzi sui mezzi eccetera, sentiremo l'assessore ai trasporti del comune di Milano. Milano, come Roma, città particolarmente diciamo congestionata per quanto riguarda i mezzi di trasporto. Poi, per allargare un po' gli orizzonti, ci sposteremo negli Stati Uniti, perché tra qualche ora ci sarà il secondo duello tra i candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Sapete che si vota il 3 novembre, quindi tra Trump e Biden, questa volta però a distanza. 349-238-6666, intanto ve lo ricordo, il numero per i vostri WhatsApp e i vostri commenti sui fatti principali della giornata, 349-238-6666, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Prima di approfondire alcuni temi con gli ospiti, sintesi della giornata. Il coronavirus in Italia, salgono ancora i contagi, oltre 8.000, ma anche i tamponi. In Campania De Luca firma un'ordinanza che prevede didattica a distanza in tutte le scuole fino al 30 ottobre. La ministra Azzolina la definisce una cosa gravissima. I possibili provvedimenti anti-Covid, non vedo rischi di lockdown nazionale a Natale, assicura il vice ministro alla salute Sileri. Mentre scattano altre chiusure in Europa, Londra impone la quarantena per gli arrivi dall'Italia e Berlino qualifica come zone a rischio Liguria e Campania. Il tema dei trasporti e della scuola, mentre prosegue il confronto tra Ministero, Regioni ed enti locali, il sindaco Sala dice: a Milano per ora non prevediamo nessuna misura in merito. A Effetto Notte ci sarà l'assessore ai trasporti Granelli. Addio a Iole Santelli, la presidente della Calabria, era malata di cancro da tempo e morta nella notte. Inchiesta MPS, Profumo e Viola condannati a 6 anni di carcere e 2,5 milioni di multa. Sport e Covid, anche Federica Pellegrini e Valentino Rossi positivi al Covid. Partiamo quindi inevitabilmente dall'andamento del coronavirus in Italia. Anche oggi i numeri crescono, a fronte però anche di un maggior numero di tamponi. Il vice ministro della Salute Sileri rassicura che al momento non ci sono ipotesi di nuovi lockdown, che scattano invece in altri paesi europei, e prosegue il dibattito su studenti e sovraffollamento dei mezzi pubblici. Continuano a salire i nuovi contagi per coronavirus in Italia, 8.804 nelle ultime 24 ore contro i 7.332 del giorno precedente. Quasi raddoppiato il numero dei morti in un solo giorno, da 43 a 83. Nuovo record anche per i tamponi, vicini a quota 163.000, in salita anche il rapporto fra positivi e tamponi, che raggiunge il 5,4%. A guidare l'impennata di nuovi casi casi Lombardia e Campania, oltre 2.000 e 1.100 rispettivamente, regioni che non escludono ulteriori misure di contenimento nelle prossime ore. A Milano, sottolinea il sindaco Beppe Sala, al termine del vertice in prefettura sull'aumento dei contagi da 2 giorni, l'indice RT nella zona della città metropolitana ha superato 2 e preoccupa la tendenza. Intanto, i pronto soccorso degli ospedali Sacco e Fate Bene Fratelli hanno deciso di accettare solo malati Covid. Il viceministro alla salute Sileri esclude al momento il rischio di un lockdown nazionale nemmeno a Natale. Più probabili chiusure circoscritte, aggiunge, nelle ore in cui ad Arzano, nel napoletano, i commercianti bloccano le strade per protestare contro il mini lockdown scattato fino al 23 ottobre alla luce dell'impennata dei contagi. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Quindi lo sentivamo, le regioni studiano nuove restrizioni. Intanto il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato questa sera un'ordinanza che dispone lezioni a distanza per tutte le scuole e le università fino al 30 ottobre, tranne che per gli studenti del primo anno. Vietate le feste in luoghi pubblici, anche quelle relative a cerimonie civili o religiose, con invitati estranei al nucleo familiare convivente. Per la chiusura della scuola, la ministra Azzolina parla di decisione gravissima, comunque ci torneremo tra poco. Per le altre regioni si lavora per alleggerire l'affollamento sui bus senza rispedire i ragazzi a casa, in didattica a distanza. Le ipotesi sono differenziazione in blocchi orari, quindi o la mattina o il pomeriggio, e più smart working per i lavoratori. Per Milano sarà ospite l'assessore qui a Effetto Notte ai Trasporti, Granelli. In ragione dell'incremento dei casi di contagio di Covid-19 e del numero di isolati, il presidente della Regione Val d'Aosta, Renzo Testolin, firmerà a breve un'ordinanza di chiusura dei comuni di Verrai, Saint-Denis e Chambave. La zona rossa sarà adottata a seguito delle indicazioni sanitarie ed epidemiologiche che riportano un indice RT al di sopra della soglia di allerta. E a proposito dell'immunità di gregge, era apparsa, no, sapete, come una soluzione ideale per combattere il nuovo coronavirus a vari leader mondiali che lo sostenevano, come il britannico Boris Johnson, il presidente brasiliano Bolsonaro, fino al presidente degli Stati Uniti Trump. L'hanno appoggiata convintamente, nonostante il giudizio degli esperti non fosse unanime. Oggi arriva però la bocciatura ufficiale della scienza. L'immunità di gregge non arresta il virus, avvertono 80 esperti da tutto il mondo in una lettera aperta sulla rivista Lancet. Ciò che serve in questo momento, al contrario, dicono, sono misure efficaci per il contenimento del contagio, mentre nuovi passi avanti si stanno facendo sul fronte dei vaccini anti-Covid, anche se per un vaccino disponibile per tutti bisognerà presumibilmente attendere il 2022. I viaggi di Radio 24. Tra polemiche e inchieste della magistratura, stenta a decollare la campagna vaccinale contro l'influenza in Lombardia, regione che anche a seconda ondata dell'epidemia resta osservata speciale per numero di contagi. La Giunta ha finora garantito l'acquisto di 2,8 milioni di dosi a fronte di una popolazione target di 3,8 milioni. In Lombardia i vari bandi di gara per l'approvvigionamento dei vaccini contro l'influenza sono tutti nel fascicolo aperto dalla Procura di Milano, che vuole mettere a fuoco come mai, dopo una serie di gare andate a vuoto, Regione Lombardia abbia acquistato 500.000 vaccini a un prezzo fino a 5 volte superiore a quello di mercato. Intanto i medici si preparano a far partire il prossimo 19 ottobre una campagna vaccinale con diverse incertezze. Paola Pedrini, medico di famiglia a Bergamo e segretario generale FIMG Lombardia. Non abbiamo ancora notizie chiare sul quantitativo di vaccinazioni che saranno disponibili. Potremo ordinarle dal 19 ottobre, vari ordini scaglionati purtroppo, e abbiamo notizia solo delle prime 100 dosi. La comunicazione di regione dice che da metà novembre avremo anche le ulteriori dosi, e metà novembre è anche abbastanza inoltrata come data per vaccinare. Nessuna certezza dunque sulla copertura delle fasce a rischio. Abbiamo notizia solo di 100 dosi per ogni medico e sulle altre non abbiamo ancora certezza. E nessuna certezza sulle disponibilità in farmacia. Quest'anno la difficoltà sarà proprio l'acquisto privato in farmacia, perché le dosi a quel livello sono assolutamente carenti. E quindi non sappiamo bene come andrà per la popolazione generale. Rosana Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cordoglio bipartisan del mondo politico e istituzionale per la morte della presidente della Regione Calabria, la forzista Iole Santelli, scomparsa nella notte per un'emorragia interna. a 52 la anni. La simpatia, la tenacia, la passione per la politica erano soltanto alcune delle caratteristiche di Jole Santelli, governatrice della Calabria, che avrebbe compiuto 52 anni a dicembre. Era stata eletta presidente della regione il 20 febbraio 2020. Avvocata nello studio di Previti, deputata di lungo corso in Forza Italia, è stata sottosegretaria alla giustizia dal 2001 al 2006 nei governi Berlusconi e sottosegretaria al Ministero del Lavoro nel 2013 nel governo Letta. L'annuncio del presidente della Camera Roberto Fico. Purtroppo è notizia della scomparsa della presidente della regione Calabria Jole Santelli. La settimana prossima faremo qui in aula la commemorazione, anche perché in questo momento sappiamo che siamo tutti molto scossi. Tra le recenti battaglie, il tentativo di aprire bar e ristoranti a fine aprile durante il lockdown. La politica è lutto, Silvio Berlusconi commenta, lascia un vuoto incolmabile. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Prorogare il blocco dei licenziamenti per quelle aziende che useranno la cassa Covid o la decontribuzione alternativa alla CIG. Questa, secondo quanto si apprende da fonti di governo, l'ipotesi cui si sta lavorando in vista della manovra. All'estero adesso lockdown non totali come quelli della primavera scorsa scattano in alcuni paesi europei e la Gran Bretagna ha rimosso l'Italia dalla lista di paesi sicuri sul fronte Covid, che significa che chiunque arrivi nel Regno Unito dall'Italia a partire da domenica deve osservare un periodo di 14 giorni di autoisolamento. Per il direttore dell'ufficio regionale dell'OMS, Hans Kluge, la situazione europea è molto preoccupante. Il Covid-19 è ora la quinta causa di morte, con una media di circa 1.000 vittime al giorno. In Francia, dopo l'intervento in TV di Macron, che ha annunciato il coprifuoco per 6 settimane a Parigi e in altre 9 città in situazione critica, è intervenuto il primo ministro Jean Castex. Cette situation exigeait une réaction forte et rapide. Questa situazione impone una reazione forte e rapida, ha detto Castex, che ha spiegato ai francesi i dettagli del provvedimento in vigore da sabato. Anche la Germania corre ai ripari con oltre 6.600 positivi nelle ultime 24 ore. Barcellona ferma bar e ristoranti, Praga e Belfast le scuole. In Polonia ha annunciato un lockdown parziale. Il Regno Unito registra quasi 19.000 contagi giornalieri e 138 vittime. E Londra, a partire da sabato, passa al livello di allerta alta, il secondo nella scala delle restrizioni imposte da Boris Johnson. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E negli Stati Uniti, tra poche ore, il nuovo duello, il secondo duello tra il presidente americano Trump, presidente uscente, e il rivale democratico Biden. Sarà un duello a distanza. E intanto la candidata democratica alla vicepresidenza, Kamala Harris, sospende la campagna per 2 membri dello staff risultati positivi. Poi ci collegheremo con gli Stati Uniti. Invece si torna a parlare di femminicidi in Italia. La Procura di Milano, dopo oltre 4 anni dai fatti, ha chiuso le indagini con l'accusa di omicidio volontario a carico di Marco Venturi per la morte della stilista di 37 anni Carlotta Benusiglio, trovata impiccata con una sciarpa a un albero nel capoluogo lombardo il 31 maggio 2016. Venturi, secondo la ricostruzione del PM, è accusato di aver ucciso la fidanzata per futili motivi, stringendole al collo una sciarpa oppure il proprio braccio e quindi strangolandola. La ragazza è deceduta subito, lui l'avrebbe poi attaccata a un albero nei giardini di Piazza Napoli il 31 maggio di 4 anni fa di notte per simulare un suicidio. E poi vicino Napoli, a Casavatore, un uomo ha riempito di calci fino a causare la rottura della milza e poi la morte tra atroci dolori. Lucia Cagliazza è ispirata in ospedale a 52 anni lo scorso 14 maggio, quando il lockdown si stava avviando a conclusione. Secondo la Procura di Napoli Nord si tratterebbe dell'ennesima vittima della violenza bieca e vigliacca di un uomo, il compagno, e non di un incidente stradale come si sospettava all'inizio. A fugare questo dubbio è stata l'autopsia disposta dal PM e gli elementi acquisiti dai carabinieri durante le indagini che oggi, a distanza di 4 mesi da quel tragico evento, hanno portato in carcere il compagno di Lucia, Vincenzo Garzia, 47 anni, arrestato come disposto dal GIP con le accuse di omicidio preterintenzionale aggravato e lesioni aggravate. MPS, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola condannati a 6 anni e 2 milioni e mezzo di multa ciascuno. Alessandro Profumo, attuale amministratore delegato di Leonardo Finmeccanica, e Fabrizio Viola sono stati condannati dal Tribunale di Milano a 6 anni di reclusione e a una multa di 2,5 milioni di euro ciascuno per i reati di false comunicazioni sociali e aggiotaggio relativi ai rispettivi incarichi di presidente e AD di Banca MPS. Oggetto della condanna in particolare la contabilizzazione nella prima semestrale 2015 dell'Istituto Senese dei derivati Santorini Alexandria, sottoscritti dalla precedente gestione del presidente Giuseppe Mussari e serviti, secondo la ricostruzione processuale, a coprire perdite di circa 2 miliardi di euro riconducibili all'acquisizione di Antonveneta. Condannato a 3 anni e 6 mesi anche l'ex presidente del collegio sindacale Paolo Salvatori per il concorso in false comunicazioni sociali, ovvero l'ex falso in bilancio. Secondo i magistrati Meneghini, nonostante l'errore nell'iscrizione a bilancio dei derivati, da parte di Viola e Profumo non si poteva ravvisare alcun intento ingannatorio nei confronti del mercato. I giudici non sono stati invece dello stesso parere. Le motivazioni saranno pubblicate tra 90 giorni e i difensori hanno già preannunciato appello, ritenendo la sentenza sbagliata. Flavia Carletti da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per chiudere, coronavirus e sport, Valentino Rossi e Federica Pellegrini, nuovi positivi al virus tra i campioni dello sport. Il pilota della Yamaha non parteciperà al Gran Premio di Argon, si dice triste e arrabbiato. E poi invece l'avete sentita all'inizio, Federica Pellegrini ha detto: ho pianto tanto, sarei partita per gli internazionali di Budapest, volevo gareggiare, dice l'olimpionica di nuoto in un video postato su Facebook. Bene, con questo si chiude questa prima parte della puntata, in modo che tra pochissimo possiamo affrontare alcuni argomenti in primo piano con gli ospiti. 349-238-6666 è il numero per i vostri WhatsApp, altrimenti pagina Facebook di Effetto Notte, dove dice Christian: se finché perdura l'emergenza sanitaria si fanno lezioni online, non credo che crescerà una generazione di analfabeti, o vogliamo intasare ancora le terapie intensive con tutto il corollario di decessi, dice Christian. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre ricchissimi di notizie e di aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata dove vi racconto all'inizio i fatti principali e poi alcuni di questi fatti invece li approfondisco a partire da questo secondo blocco con gli ospiti. Sapete, si dice ormai da settimane che la regione più colpita, con la maggior crescita insomma di contagi da coronavirus, è la Campania. Ed è arrivata oggi, stasera, una misura drastica. In realtà vi ricorderete che il presidente De Luca, il presidente della regione, da tempo ventilava misure molto drastiche, addirittura la chiusura di tutto se non fossero state rispettate rigorosamente le regole, e stasera ha firmato un'ordinanza con cui chiude le scuole da domani sino al 30 ottobre. La ministra dell'istruzione Azzolina non l'ha presa per niente bene, ha detto che è una decisione gravissima. Dice: in Campania lo 0,75% degli studenti è risultato positivo a scuola e di certo non se lo sono preso a scuola. La media nazionale è 0,80, se c'è una crescita di contagi non è di certo colpa della scuola. E ha detto di se stessa, nel suo ruolo: non ho né il potere di aprire le scuole né il potere di chiudere le scuole. I presidenti di regione e le province hanno il potere di chiuderle. E così ha fatto De Luca, come ci conferma da Napoli la nostra Laura Viggiano. Ciao Laura. Sì, ciao Roberta, infatti De Luca lo aveva detto, a fronte di un aumento elevato e rapido avrebbe varato misure rigorose contro assembramenti e mobilità incontrollata. Oggi sono stati comunicati 300 contagi in più in 24 ore, passati quindi dagli 818 di ieri a 1127, in una regione dove i posti di degenza ordinaria disponibili per il Covid si stanno rapidamente esaurendo. Oggi per di più è stata superata anche la soglia d'allarme indicata dallo stesso governatore, quella di 800 unità di saldo tra nuovi malati, cioè 1127, e i guariti, che sono 317. E quindi in un comunicato la regione ha fatto sapere che per il livello di contagio altissimo registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico, quindi nelle scuole primarie e secondarie, sono sospese le attività in presenza da domani e fino al 30 ottobre. Decisione che, come dicevi da studio, ha fatto esprimere dissenso alla ministra Azzolina, che appunto l'ha definita gravissima, sbagliata, inopportuna, facendo notare il tasso appunto di contagio all'interno delle scuole pari allo 0,075% in Campania a fronte di una media nazionale dello 0,080%. Ma torniamo all'ordinanza. Sono sospese le attività didattiche e di verifica in presenza nelle università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno. Sono state vietate anche le feste, anche quelle che riguardano cerimonie civili o religiose. Quindi una misura più restrittiva rispetto a quella nazionale, no? Sì, decisamente più restrittiva e tra l'altro ci sono ulteriori misure restrittive per gli esercizi di ristorazione, ai quali non solo insomma è stata già imposta la chiusura anticipata, ma adesso dopo le 21 non potranno più fare vendita di cibo e bevande da asporto. Sarà invece consentito il delivery senza limiti di orario, cosa che, se ricordate, durante la prima parte dell'emergenza Covid e lockdown era stata proibita. Sì. E intanto si raccomanda invece agli enti e agli uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza. Sono state sospese anche le attività dei circoli ludici ricreativi. Quindi insomma diverse misure che mirano ad un forte contenimento, diciamo, anche della circolazione dei momenti insomma di contatto, di socializzazione che possono avvenire quotidianamente in tutta quanta la regione. Laura, tra l'altro, appunto, lo ribadisco, dicevamo prima che questo nuovo DPCM del Presidente del Consiglio prevede, ne abbiamo parlato tante volte in questi giorni qui a Effetto Notte, una serie di regole restrittive anti-Covid, però con la possibilità per le regioni, come era anche nei mesi neri scorsi, insomma, dello scorso inverno-primavera, la possibilità da parte delle regioni di emanare delle ordinanze ancora più restrittive, non di allentamento ma di restrizioni. Sì, e questo ha fatto, a questo si è appellato naturalmente De Luca in questa ordinanza che ha emanato. Senti Laura, però io ho avuto anche diverse volte il sindaco De Magistris, insomma non c'è un gran rapporto tra De Magistris e De Luca, il quale dice che invece lui ha sempre visto a Napoli comunque il rispetto delle regole, dice i cittadini sono responsabili, non bisogna. Diciamo che tu c'è cosa molta vedi? Attenzione, c'è sicuramente molta attenzione. Diciamo che forse dopo l'estate, settembre è stato un mese un po' particolare, almeno nel centro di Napoli, in cui insomma si sono visti anche un po' di comportamenti tra virgolette divergenti, cioè mentre prima c'era un'attenzione massima da parte di tutti, insomma, in qualsiasi fascia d'età. Tutti con la mascherina, i ragazzi, le persone più adulte, insomma gli anziani. Poi c'è stato un momento in cui forse, insomma, soprattutto di sera ci si lasciava un po' andare. Ma in realtà in questi giorni, insomma, è ripresa, insomma, questa linea un po' più rigida. La gente sta comprendendo che la situazione si sta aggravando e che, a differenza di prima, i contagi sono sicuramente maggiori e viaggiano con una velocità superiore, quindi chiaramente insomma si sta un po' più attenti. È chiaro che le misure che De Luca riversa anche sulla città di Napoli per De Magistris non sono sempre facilmente digeribili, abbiamo visto, sì, ma anche comprensibili se vogliamo, perché il sindaco ha chiesto più volte i dati relativi alla città. Ora, questo è sintomo del fatto che forse insomma non ci sono delle comunicazioni dirette anche da questo punto di vista. Ci auguriamo che prima o poi, insomma, forse a parte la questione, no, delle competenze Stato-Regioni, insomma, visto che sono questioni molto molto vicine alle amministrazioni comunali e soprattutto ai tessuti sociali che poi vengono gestiti dalle amministrazioni comunali, forse insomma si riesca anche un po' a dialogare meglio e di più per riuscire poi a concretizzare insomma l'unico fine che immagino abbiano entrambi, sia De Magistris che De Luca, che il bene, insomma, della popolazione, della campagna, cioè insomma, riuscire a tutelare, certo, la salute e anche il tessuto economico sociale, perché il rischio è forte, insomma c'è molto malumore, c'è molta sofferenza, insomma, in tutte le fasce, certo, della diciamo sociali, produttive, insomma, eccetera, Laura. Quindi sì, ci auguriamo, insomma, che questa comunicazione prima o poi, il prima possibile, anzi avvenga tra il presidente De Luca e il sindaco De Magistris, proprio insomma con l'obiettivo che dicevi tu, si dice anche a livello nazionale, di essere uniti anche a livello politico, maggioranza, opposizione, insomma, quindi a maggior ragione anche tra presidente di una regione e un sindaco. Grazie Laura Viggiano, grazie da Napoli. Ciao Laura, un abbraccio. E intanto vedo che si legge nel monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità che è necessaria una rapida analisi del rischio subregionale per il tempestivo innalzamento delle misure di contenimento e mitigazione nelle aree maggiormente affette. Quindi una raccomandazione a prendere, diciamo, tradotto, delle misure più restrittive là dove i contagi sono più alti. Poi invece vedo un messaggio di una persona, di un'ascoltatrice o ascoltatore, vediamo se riesco a aprire questo messaggio, Silvia da Roma, che esprime attenzione per una notizia, due notizie anzi di cui avevo dato conto poco fa, di femminicidi, e dice: nessuno di noi ha dimenticato la tragica storia della stilista Carlotta a Milano, appunto, vi dicevo, che il cui fidanzato ha simulato il suo suicidio con questa impiccagione in piazza Napoli, e finalmente dopo 4 anni si è arrivati alla verità. E poi dice anche la morte atroce della povera Lucia vicino a Napoli. I femminicidi sono una sconfitta per tutta la società, dice giustamente Silvia. Torno ratta con la Folgore con gli altri argomenti. Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. E le notizie le trovate tutte qui a fine giornata, Roberta Giordano sempre con voi a raccontarvele dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22, e poi alcune di queste vengono approfondite per renderle più chiare, per affrontarle, per capire anche gli aspetti controversi insieme agli ospiti. Dovremo raggiungere tra poco l'assessore ai trasporti di Milano Granelli, vista questo continuo serrato confronto tra il Ministero dei Trasporti e gli enti locali, le regioni, per capire insomma come si possono decongestionare i mezzi pubblici, soprattutto nelle grandi città, una grande città come Milano che fra l'altro è un po' nel mirino in questo momento, cresce l'allerta perché ha superato un certo livello, ci sarebbe, secondo quello che ha detto il sindaco Sala, un indice di contagiosità R con T di 2, che è, diciamo, decisamente alto. Vediamo appunto di raggiungerlo tra poco. Nel frattempo invece facciamo una telefonata un po' più a distanza per collegarci con gli Stati Uniti, perché tra qualche ora, tenendo conto del fuso, dovrebbe esserci il secondo confronto, il secondo dibattito, il secondo faccia a faccia, diciamo, tra i due pretendenti alla presidenza degli Stati Uniti. Uno è il presidente uscente, naturalmente, Donald Trump, e il suo rivale invece democratico, Joe Biden. Un duello che avviene a distanza, quindi in modo, tra virgolette, diciamo virtuale, perché sapete che Trump è risultato positivo al Covid nei giorni scorsi, poi miracolosamente nel giro di pochissimi giorni si è detto guarito, è uscito dall'ospedale, anzi si muove senza mascherina, ma anche nella sua famiglia Melania è risultata positiva nei giorni scorsi, ancora non si sa se sia guarita, e così anche il figlio più piccolo. Fra l'altro oggi vediamo, è in collegamento il nostro Riccardo Barlam. Riccardo, eccoci qui. Eccoci qui, buonasera a tutti. Ciao Roberto. Ciao Riccardo, stavo spiegando che insomma, tra poche ore, tenendo conto del fuso, ci sarà il secondo faccia a faccia, che sia a distanza questa volta, tra Trump e Biden, con Trump che ha già fatto una serie di dichiarazioni: se vince Biden la Cina si compra l'America, poi ha giurato che non farà più nessun altro lockdown, e intanto Twitter ha sospeso l'account della campagna di Trump, perché Trump dà del bugiardo a Biden, no? Insomma, diciamo una campagna elettorale piuttosto movimentata e con molti punti interrogativi, con chissà come andrà a finire. Adesso anche la candidata alla vicepresidenza democratica Kamala Harris ha sospeso la sua campagna perché qualcuno dello staff è risultato positivo, no? Insomma, tutto sì, complicato. Così, due anche molto, come dire, velenosa, ma questo si sapeva. Oltre a questo, cioè, vi ricordate che Trump ha avuto il Covid, la moglie, la sua detta stampa, ma anche il figlio Baron, il figlio adolescente suo e di Melania. Melania non vive la Casa Bianca da un paio d'anni, comunque ieri ha annunciato che il figlio è stato positivo al coronavirus, adesso è guarito. Stamattina Trump parlava di lui anche ieri nei comizi che ha fatto, perché Trump dopo una settimana è riuscito fuori, adesso fino a fine mese ha un'agenda piena di appuntamenti, di comizi, 2-3 comizi al giorno, presenza fisica, quindi lui dice di essere immune, ma insomma forse non lo sono gli altri, e quindi la gente si ammala. La cosa, come dire, anche negli Stati Uniti i casi di coronavirus stanno aumentando, c'è questa seconda ondata, è molto forte soprattutto negli stati del sud dove fa caldo e negli stati rurali o in posti tipo l'Alaska, e ai massimi d'agosto. Questo scontro televisivo di stasera, appunto, come hai ricordato tu, doveva essere il secondo faccia a faccia, e i due candidati insieme hanno 150 anni, quindi Trump si è già ammalato, Biden ne ha 77, e se dovesse vincere le elezioni sarà il più anziano presidente della storia degli Stati Uniti, quindi lui sta attentissimo, e appunto questo dibattito di stasera ci sarà a distanza, Trump parlerà su NBC e Biden su ABC. Quindi tutte e due in diretta televisiva su due canali differenti. Su due canali diversi sarà complicato seguirli. Come si fa a ricomporre tutto? Cioè che... Ma noi per fortuna qui negli Stati Uniti siamo due giornalisti per il sole 24 ore, quindi ci siamo divisi, come dire, il compito, però ovviamente sarà interessante anche seguire tutte e due le vicende, tutte e due quello che succederà. Stasera il tema lo decideranno gli elettori nei due dibattiti, entrambi risponderanno alle domande degli elettori, quindi sarà anche curioso questo. E il tema del coronavirus credo che sarà una delle dominanti, poi vabbè, chiaro, il discredito del personaggio e dell'avversario ci sta nelle corde, ci sta in un personaggio come Trump, e i sondaggi danno da mesi, come sapete, Biden in vantaggio. In questi giorni si parla di la media dei sondaggi nazionali di 10-12 punti alcuni percentuali, ma in realtà le cose forse non stanno proprio così, perché Trump sta investendo moltissimo nella sua campagna di pubblicità sui social network, mentre Biden punta più sulla TV, e i social network danno questi messaggi mirati, e lui già nel 2016 era svantaggiato rispetto alla Clinton e poi vinse. E secondo alcune società specializzate il distacco tra i due sarebbe nell'ordine di 3 punti percentuali, quindi pochissimo, quindi, insomma, pochissimo, no, e lui la partita è completamente aperta. Assolutamente, direi, e anche insomma, se Biden dovesse vincere di misura sarebbe lo scenario peggiore, perché Trump ha già detto che non accetterà una sconfitta e quindi la transizione pacifica, ci saranno ricorsi legali sul voto postale che lui non riconosce, e nelle scorse settimane, ricordate, lui in North Carolina ha invitato i suoi sostenitori a provare a votare sia per posta e a poi presentarsi al seggio, quindi anche un messaggio, se vogliamo, un pochino eversivo dato dal presidente di uno stato così importante, la prima potenza mondiale. E due giorni fa in California alcuni esponenti repubblicani hanno ammesso di avere inviato delle schede postali contraffatte a elettori che possono negli Stati Uniti votare per posta. Quest'anno col Covid tanti stati hanno cambiato le leggi per aumentare i giorni, le possibilità di ricorso a questo voto, a questa modalità di voto. Si pensa che ci saranno 100 milioni di americani che voteranno in questo modo, e quindi, siccome sono tante leggi in tutti gli stati, si preparano dei ricorsi legali, quindi se la vittoria di Biden ci sarà e non sarà veramente chiara, sarà abbastanza complicato capire chi vincerà queste elezioni. Infatti tu prospettavi questa eventualità, se ci fosse questo scenario, Riccardo, che Biden dovesse vincere proprio per un soffio di voti. Trump l'aveva già minacciato nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, lui metterebbe in discussione quel risultato, e quindi, insomma, addirittura ci avevi raccontato, mi pare qualche settimana fa, una settimana fa, della governatrice di uno stato che si progettava un rapimento nei suoi confronti. Sì, no? In Michigan c'è stato questo tentato colpo di stato di sei suprematisti bianchi, in realtà hanno arrestato 13 persone perché questi volevano sequestrare questa governatrice democratica colpevole di aver dichiarato un lockdown ad aprile molto rigido per evitare la diffusione del virus, e tanti di questi estremisti, diciamo, di destra vedevano in questo una lesione del loro diritto costituzionale, delle loro libertà individuali. Ci sono le foto di queste proteste davanti al Palazzo del Capitolo dello Stato del Michigan, dove erano spiaccicati letteralmente questi personaggi, molti col cappellino MAGA di Trump o con le bandiere americane, alcuni anche con le armi davanti a questo palazzo governativo per cercare di entrare. E alcuni, diciamo, più estremisti di questo gruppo avevano appunto pensato di sequestrare la governatrice, di fare un processo per tradimento, e nelle intercettazioni per fortuna sono stati arrestati dall'FBI che ha messo due talpe, nel senso due informatori, sì, all'interno di questo gruppo, e dopo tre mesi di intercettazioni in cui questi dicevano l'ammazzeremo la governatrice, poi occuperemo il palazzo, e poi se vince le elezioni Trump ci sosterrà per scatenare una seconda guerra civile e avere la supremazia noi bianchi, no? Questo era un po' il messaggio di questi qui. Ci sono questi personaggi, Trump non prende le distanze da questi gruppi, diciamo, eversivi, anche violenti, perché molti di questi lo votano, e quindi in questa fase anzi cerca di accendere di più il dibattito. Nel primo dibattito televisivo, quando si è parlato di un gruppo di questi supremazisti bianchi, Proud Boys, lui ha detto non li ha condannati perché ha causato dei morti negli anni scorsi negli Stati Uniti a Charlottesville, ma ha detto semplicemente state a guardare, fate un passo indietro, quindi, però state pronti. Però state pronti, e in questo c'è anche la quasi scontata conferma della nuova giudice conservatrice alla Corte Suprema, che sposterà gli equilibri, la maggioranza della Corte Suprema dalla parte conservatrice, quindi 6 giudici conservatori rispetto ai 3 progressisti liberali, diciamo così. Quindi se ci dovesse essere un voto contestato, loro sono quelli che avranno l'ultima parola, e anche lì Trump sta tessendo la tela, per cui avrà la maggioranza. E la cosa già nel 2000 con Al Gore e George Bush, alla fine la Corte Suprema decise per dare la vittoria a George W. Bush, e questo anche può, è un altro scenario che può capitare. E in tutto questo va detto, però, per rasserenare un po' gli animi, che il Pentagono ha detto, i vertici del Pentagono, come il capo di Stato Maggiore Congiunto, Malley, o anche il segretario della difesa, hanno detto che loro non c'entrano niente con le elezioni, che le elezioni americane, la Costituzione e le leggi statali e federali hanno in sé tutti gli elementi in caso di problemi, di dispute, per risolverli. Quindi la cosa aspetterebbe ai tribunali e fino alla Corte Suprema. Quindi non hanno intenzione, insomma, di appoggiare eventuali azioni sovversive. Lui ha detto una frase, questo Mattis, la scorsa settimana c'è stato una specie di town hall virtuale con tutti i militari americani che sono in giro anche nelle missioni nel mondo, anche nelle zone di guerra. Ha detto noi dobbiamo restare apolitici, teniamo la mano sulla Costituzione, e vi ringrazio per quello che fate per il nostro paese. Quindi il messaggio dei militari è: noi non lo stiamo a sentire, non lo seguiamo Trump con i suoi messaggi eversivi, e questo, diciamo, è un bene per la tenuta delle istituzioni democratiche americane. Comunque vada, insomma, la cosa non dovrebbe sfociare in qualcosa sotto controllo, però. Si spera, insomma, naturalmente, ci mancherebbe. Grazie intanto, Riccardo Barlam. Dimmi solo una cosa: tu che sei lì a New York, la gente, quando parli con le persone che incontri, che cosa ti dicono in proposito? Sono eccitate da questa scadenza? Il paese è veramente diviso in due, ci sono appunto veramente guelfi e ghibellini. I trampiani sono scatenati in queste ore, si parla di questo presunto scandalo rilanciato dal New York Post sulle mail del figlio di Biden, Hunter, che ha questo contratto lavora con una società ucraina, e insomma hanno trovato attraverso Bannon, Steve Bannon e Rudy Giuliani, attraverso un vecchio computer della fondazione del figlio di Biden, che è morto, l'altro figlio, questo computer, attraverso il negoziante che aveva il suo computer rotto, è stato preso dall'FBI, che ha riguardato il disco, ha trovato delle mail in cui, insomma, questo Hunter avrebbe fatto incontrare Biden con i vertici di questa società ucraina, Biden ha sempre detto io non c'entro niente con questa storia, e quindi c'è un fango che avanza a poche settimane dalle presidenziali, come è stato con la Clinton, e così come Trump sta aumentando gli investimenti sui social network, nelle inserzioni pubblicitarie, insomma sta cercando di ripetere la rincorsa del 2016, e bisognerà vedremo come andrà, ne avremo modo ancora di aggiornare. Grazie intanto Riccardo Barlan dagli Stati Uniti. Voi. Ciao, un abbraccio. Ciao Riccardo. C'è la viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, abbiamo fatto questo collegamento con gli Stati Uniti, ma ritorniamo sulle questioni italiane. Sapete che dopo il varo del DPCM, dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio, con le nuove regole, le restrizioni anti-Covid, delle quali con gli ospiti qui a Effetto Notte abbiamo parlato ampiamente nelle ultime puntate, sapete che c'è questo intricato nodo del trasporto pubblico locale, della congestione del trasporto pubblico locale, quindi bus, metropolitane, tram, eccetera, eccetera, che sono un problema, perché lì chiaramente si possono creare molto facilmente i contagi. Le regioni hanno chiesto al governo che disponga di nuovo la didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori, per decongestionare appunto i mezzi pubblici, che sarebbero attualmente riempibili solo come capienza sino all'80%, ma il Presidente del Consiglio Conte, la Ministra Azzolina, il Ministro della Salute e Speranza si sono detti assolutamente contrari, totalmente contrari anche i presidi. Era qui due giorni fa il Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Giannelli, sentiamo che cosa ha detto in proposito. Sono sicuramente sulla posizione espressa dalla Ministra Azzolina e dal Presidente del Consiglio. A scuola le regole le stiamo rispettando e non ci sono contagi sul luogo scolastico, per cui non vedo sinceramente la ragione di questa proposta, né d'altronde il fatto che i trasporti possano incontrare delle difficoltà può essere una buona ragione per tenere gli studenti a casa. Per mesi abbiamo discusso sulla didattica a distanza, sulle difficoltà che questa creava. Io ritengo che sia un sistema valido se circoscritto, ma la scuola è in presenza. Non possiamo pensare di sostituire tout court la scuola in presenza, la didattica in presenza con quella a distanza soltanto per difficoltà provenienti dall'esterno. Quindi io credo e chiedo che ci si organizzi per far sì che i ragazzi possano arrivare a scuola utilizzando i mezzi pubblici come hanno sempre fatto, magari scaglionati su un paio di orari. Questo sì. Allora, poi ho invitato il presidente di Astra, dell'Associazione delle aziende di trasporto pubblico locale, Gibelli, che ha detto che però non è possibile ridurre la capienza massima dei mezzi pubblici perché questo creerebbe assembramenti alle fermate e lascerebbe a terra almeno 270.000 utenti. In questi giorni sono in corso tavoli di confronto tra la ministra dei trasporti, le regioni e gli enti locali per trovare quindi insomma una mediazione. Si apprende da questi incontri che c'è un margine aperto di trattativa tra governo e regioni in merito alla possibilità di differenziare orari scolastici allo scopo di diminuire i picchi di utenza. Sentiamo però che cosa ha detto ieri in proposito Mario Rusconi, sempre per quanto riguarda i presidi, è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Sezione Lazio. Mi sembra di capire che la ministra dica sotto altre forme quello che prima io sostenevo con una certa foga, cioè in poche parole lo Stato, cioè noi cittadini abbiamo stanziato una serie di piuttosto consistente di risorse economiche e finanziarie, che fine hanno fatto? Siamo noi che dobbiamo chiedere alle regioni, avete preso più pullman, avete preso accordi per esempio i gestori di bus privati e così via, avete aumentato il numero degli organici per aumentare le corse delle metropolitane, dei treni, degli autobus? Loro devono rispondere a noi, non possono fare lo scaricabarile. Rusconi si riferiva alla ministra De Micheli che ieri ha ricordato che sono stati stanziati per le regioni 300 milioni di euro per appunto attrezzarsi per migliorare la rete dei trasporti locali, e poi che nella legge di bilancio ci saranno altre risorse. Quindi il preside Rusconi diceva insomma, le regioni ci devono dire un po' si sono se le hanno utilizzate queste risorse. Quindi il problema è così serio e diffuso che pensate che oggi c'è stato uno sciopero degli studenti di un complesso scolastico a Cagliari, sempre per questa storia dei bus. Dicono siamo tutti così assiepati dentro questi mezzi di trasporto, inutile che poi a scuola dobbiamo mantenere mascherina e distanziamento. Tra le ipotesi di mediazione anche quella di aumentare la percentuale di lavoratori in smart working, in particolare nella pubblica amministrazione. Comunque c'è anche questa ipotesi di differenziare gli orari, quindi con dei blocchi dei ragazzi che vanno a scuola la mattina e altri che vanno a scuola il pomeriggio, soprattutto nelle grandi città. A proposito delle grandi città, dovevamo avere, oggi ci ha confermato due volte l'assessore Granelli, assessore ai trasporti a Milano, che però si è disperso, non si trova, sarà fuggito dal confronto, non lo so, anche perché Milano oggi si trova in una situazione particolare, oltre 500 positivi. Il sindaco Beppe Sala ha detto che c'è un indice di contagiosità RT di 2 in città e che quindi siamo ai livelli di marzo in Lombardia. E a proposito dei trasporti ha detto sì, per il momento il comitato tecnico scientifico, gli esperti non ci hanno dato indicazione di prendere delle misure, di adottare dei provvedimenti, non sono previsti interventi al momento, ha detto Sala. Siamo molto lontani dalla capienza dell'80%, se questa va ripensata siamo disponibili. Cioè, dice Sala, in realtà è più una percezione degli utenti, anche se noi, insomma, le foto, le immagini abbiamo viste sulle metropolitane, sugli autobus. Una possibile proposta che fanno anche i presidi, per esempio, è quella di utilizzare i bus privati, quelli per esempio del Gran Turismo, che stanno soffrendo anche proprio della mancanza di turismo. L'assessore Granelli non si trova, abbiamo continuato a telefonare dopo che oggi due volte ci ha dato la conferma, evidentemente non si è sentito di fare questo intervento, questo confronto col sindaco Sala. Si saranno detti aspettiamo di vedere, però chiaramente ci si presenta a un appuntamento al quale si è dato la propria parola, insomma il proprio impegno. Allora adesso invece parliamo di qualcosa di più leggero. Per che cosa vorresti essere ricordato al mondo? Disponiamo di un tempo limitato sulla Terra. Vuoi diventare la persona che eri destinato ad essere? Non perdere tempo a vivere una vita inutile. Ma che sto facendo? Sfrutta ogni prezioso istante della tua vita e libera la tua vera essenza. Si apre oggi con Soul, nuovo lavoro della Pixar, la 15ª edizione della Festa del Cinema di Roma, la prima in versione ridotta a causa naturalmente delle misure sanitarie anti-Covid. Ce ne parla la nostra Marta Cagnola. Marta, naturalmente tutto si deve adattare a questa situazione particolare, insomma. Sì, allora tutto si deve adattare, ovviamente distanziamento in sala, mascherine, ingresso nell'auditorium solo con biglietto e con accredito, prenotazione obbligatoria, conferenze anche in streaming e soprattutto il tappeto rosso. Allora, che a Venezia era stato coperto alla vista perché non era possibile evitare assembramenti attorno al tappeto rosso, normali assembramenti di curiosi, perché insomma il tappeto rosso normalmente si fa per quello. Certo. Roma avrà una dimensione diversa. Allora, per chi conosce l'Auditorium Parco della Musica, ora Auditorium Ennio Morricone di Roma, il red carpet viene praticamente steso, srotolato ai piedi della cavea dell'auditorium. Quindi praticamente verranno dati degli ingressi, sorte di biglietti, si potrà assistere al red carpet praticamente dalla cavea dell'auditorium. Ovviamente non si potranno chiedere autografi o selfie perché non si è vicini al red carpet, ma il red carpet è comunque perfettamente visibile, quindi potrà essere apprezzato, soprattutto perché ci sono insomma personaggi molto attesi, quindi è una soluzione di compromesso, però una buona soluzione. Si concluderà il 25 ottobre, no Marta, e ci sarà anche tra gli ospiti Pierfrancesco Favino, che ormai insomma lo vediamo in vari ruoli piuttosto impegnativi. Sì, beh, ormai è l'attore più premiato e più amato del momento, giustamente Pierfrancesco Favino, tra l'altro chiamato a incontrarsi con Francesco Totti, quindi un motivo di grandissimo interesse. Oggi c'era questo film della Pixar, difficilissimo trovare i biglietti appunto perché le sale sono molto distanziate, ma è giusto che la Festa del Cinema ricordi che al cinema si può andare e che il cinema è ancora un luogo sicuro.